in primo piano. È lunedì 30 agosto dunque e che dire, la maggior parte dei giornali oggi aprono sullo show pirotecnico di Gheddafi, l'abbiamo sentito anche il nostro GR. Gheddafi sbarcato a Roma anche quest'anno per festeggiare insomma, la firma del trattato italo-libico. E che ti ha combinato dalla lettura dei giornali, l'apertura dei vari quotidiani, il Corriere della Sera, Gheddafi, l'Europa sia islamica, show del colonnello con 500 hostess, protesta l'opposizione, anche per la stampa l'apertura è su questo, l'Europa scelga l'Islam, Gheddafi incontra 500 hostess e 3 si convertono, oggi vedrà Berlusconi. Per l'Unità in prima pagina, quello che non dice, e c'è proprio Muammar Gheddafi in prima pagina e sullo sfondo si riconoscono le amazzoni, le sue guardie del corpo personale con cui è sbarcato dall'aereo. Gheddafi a Roma, show sull'Islam, anche l'apertura del Messaggero, così il secolo XIX, Islam, religione d'Europa. Mentre l'apertura più prettamente politica è dedicata al giornale e Repubblica. Il giornale oggi fa un altro duro colpo al presidente della Camera Gianfranco Fini, un altro duro attacco. Fini e gli aiutini degli amici, o meglio, Fini e gli aiutini agli amici. E vedremo di cosa si tratta sostanzialmente, scrive il giornale. Si scopre che la sua segretaria riceveva alla Camera l'imprenditore che rideva durante il terremoto e si adoperava per sbloccargli i pagamenti. Ripete, un altro duro attacco dopo la telenovela della casa Monte Carlo lasciata al partito e poi ora in uso, in affitto al cognato di fatto di Fini, al fratello della sua compagna. Vedremo di cosa si tratta più approfonditamente dopo. Per la Repubblica, processo breve, scontro PDL Finiani. Mentre io voglio ricordare l'apertura del Sole 24 Ore, Il Sole 24 Ore del lunedì, come di consueto, un'ampia analisi dei temi interessanti del paese, la pagella sociale delle regioni, questo è il titolo d'apertura del Sole. Si tratta di che cosa? Da quando l'Europa ha varato i famosi obiettivi di Lisbona e mentre in Italia era in piena fase di attuazione la riforma Bassanini che assegnava alle regioni nuove competenze, ecco che cosa è la classifica per quel che riguarda il federalismo tra le regioni che hanno compiuto maggiori processi sul versante socio-economico negli ultimi 10 anni. Volete sapere qual è la regione che ha compiuto maggiori progressi? Si tratta del Lazio. La pagella sociale delle regioni è proprio il Lazio sul gradino più alto, davanti alla Lombardia e al Veneto, mentre la Sardegna è in coda. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore di oggi, ma come detto sono tantissimi i commenti, io inizierei proprio da questo. Prima di fermarci per la pubblicità, poi ovviamente leggeremo qualche commento in più sulla vicenda Gheddafi oggi davvero straborda sui giornali italiani con tantissimi commenti, uno su tutti quello di Gian Antonio Stella a pagina 38 del Corriere della Sera, i capricci di sua maestà da Tripoli, compiaciuto tra i suoi 30 cavalli berberi più belli di quelli di Ben-Hur, le sue 40 amazzoni di scorta con rimmel antisommossa, le sue 500 ninfette italiane prese a Nolo, Papi, Muammar, benedice l'amico Silvio e tutto il popolo italiano. Questa sì è un'accoglienza da re. Diciamo la verità, scrive Stella, era cominciata male tra Gheddafi e gli italiani. Prima il fastidio delle polemiche sulla cacciata dei nostri connazionali, lo strascico del rancore per la nostra occupazione coloniale, i seccanti sospetti su un suo coinvolgimento in episodi terroristici, poi le frasi di Oriana Fallaci, che gli disse «è oltre a essere un tiranno è un gran villanzone, è clinicamente stupido». E poi ancora Indro Montanelli che lo aveva bollato come un sinistro pagliaccio. Ma poi tra lui, Muammar e Silvio Berlusconi, pietra sopra. Io e Berlusconi siamo fatti per intenderci, aveva detto nel 94 Gheddafi. E poi da lì Stella ricorda i vari show. L'anno scorso in Campidoglio aveva detto «il partitismo è un aborto della democrazia», questo Gheddafi, eh? Se me lo chiedesse il popolo italiano gli darei il potere, annullerei i partiti affinché il popolo possa prendere il loro posto. Basta destra e sinistra, il popolo italiano eserciterebbe potere direttamente. Poi disse alla Sapienza, demos in arabo vuol dire popolo, crazi vuol dire sedia. Cioè democrazia, il popolo si vuole sedere sulle sedie. Rimase storica questa frase di Gheddafi. E allora Ancora Stella, le letterine affittate perché ascoltassero a 80 euro l'una. Il sermone maomettiano aveva rivelato l'anno scorso: sapete che al posto di Gesù crocifissero un suo sosia? Questa volta, tra i sorridenti inchini e gli ossequiosi salamelecchi dei nostri uomini di governo, solitamente ostili, diciamo così, a certi discorsi, è andato oltre. L'Islam dovrebbe diventare la religione di tutta l'Europa. Così è fatto, Papi Muammar adora essere circondato da cammelli, cavalli e puledre. Insomma, Gian Antonio Stella, questo sul Corriere, ma tanti altri commenti, e proprio dalla giornata di Gheddafi riprenderemo tra poco la lettura dei giornali, subito dopo la pubblicità. E allora alle 7:35 minuti, eccoci qui cari ascoltatori, sempre con 24 Mattino, che ripeto da oggi parte prima, alle 7:23, minuto più, minuto meno, siamo ancora con la lettura dei giornali. Io vi ricordo intanto il tema del nostro sondaggio, ne parleremo poi alle 8:30, dovete votare su radio24.it, bianco o nero, ci trovate nell'home page e vi chiediamo se secondo voi sia giusto pagare, versare l'8 per mille nella nostra dichiarazione dei redditi, anche nella possibilità alle associazioni religiose. Vi chiediamo questo, è giusto oppure no? Ne parleremo più avanti. Come detto, i giornali oggi sono tutti concentrati, almeno nei titoli di apertura, sullo show di Gheddafi. Abbiamo già sentito come ne ha parlato e come ne scrive Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. Lo show di Gheddafi e anche la politica in primo piano. Che ha combinato ieri Gheddafi? Beh, le 500 hostess alle quali ha fatto, come l'anno scorso, una lezione sull'Islam, nella quale tra l'altro ha detto l'Islam sia la religione dell'Europa. E il Corriere della Sera con Fabrizio Caccia ha anche intervistato chi? Una delle tre convertite, conversioni un po' strane, qualcuno fa sapere, e invece eccola qui, Rea Beko, 27 anni, intervistata a Pagina 2, nata a Tirana in Albania, ma vive in Italia da quando ha 15 anni, papà imprenditore, mamma stilista, lei lavora come promotrice finanziaria, così mi sono convertita. Il mio ragazzo mi ha detto: finalmente ti sei coperta, prima per strada ti guardavano tutti. Esce col chador nero dall'Accademia Libica di Via Caldonazzo, felice. Mi sento purificata, ora faccio il digiuno, rispetto il Ramadan. Il colonnello è come uno di quei saggi antichi a cui si rivolgevano i cavalieri prima di andare in battaglia, un saggio che dà consigli. Il mio sogno è diventare sindaco di Roma, dice scherzando, ma mica poi tanto. Una delle tre ragazze convertitesi dopo la lezione al termine della quale Gheddafi ha fatto distribuire a tutte il glorioso Corano, come mostra a pagina 3 della Stampa in una foto una delle hostess, delle 500 hostess che sono state reclutate. Alcune di loro dicono in realtà è stata una cosa abbastanza squallida, altre dicono non niente da dire. Natalia, intervistata da Pierangelo Sapegno sulla Stampa, dice: ma non ricorda, non ne parlo, non vuol dire che mi sono convertita anch'io, è stata un'esperienza indimenticabile, però è un uomo affascinante, ora esco più ricca, ne so qualcosa di più sull'Islam. Sta di fatto che le polemiche ci sono sui giornali e per esempio l'Unità che cosa fa? Mette 5 domande a Gheddafi. Il titolo in prima pagina è Gheddafi, quello che non dice. Le 5 domande a pagina 6 e 7 che l'Unità vorrebbe evidentemente porre al leader della Libia sono queste. Prima, colonnello Gheddafi, che fine hanno fatto i 250 eritrei rinchiusi nei campi in Libia? Seconda domanda, colonnello Gheddafi, perché non sottoscrive la Convenzione di Ginevra sul diritto d'asilo? Terza, colonnello, perché non apre le porte dei centri di accoglienza ai giornalisti? 4. Signor colonnello, è vero che lei ha chiuso tutti i centri di detenzione? 5. Signor colonnello, risulta che lei faccia affari con il premier Berlusconi. È vero? 5 domande per il leader libico. Oggi tra l'altro c'è un incontro con Berlusconi e secondo Repubblica questa predica di Gheddafi ha irritato non poco anche alcuni esponenti del governo, anche se la linea, secondo Francesco Bei, è quella un po' di parlare di folklore, di dire le cose importanti sono altre. Qualche cattolico si è irritato, soprattutto nella maggioranza, per esempio Maurizio Lupi, vicepresidente della Camera, viene citato da Repubblica a dire: ciò che più mi preoccupa è che ci stiamo abituando a questi spettacoli. tanto che queste stupidaggini sull'Islam passano quasi in secondo piano, bisognerebbe ricordare a Gheddafi che proprio la generosa accoglienza nei suoi confronti testimonia la grandezza della cultura cristiana che è alla base dell'identità europea. Sta di fatto che minimizzare pare che sia un po' la linea del governo. Staremo a vedere, non è escluso che domani ne parleremo anche di questa visita di Gheddafi, che ricordo oggi incontrerà anche il premier Berlusconi, credo in serata dopo un convegno. Ma certo, l'arrivo di Gheddafi a Roma ormai da un paio d'anni così è accompagnato dalle solite polemiche e dagli soliti interventi. Voglio concentrarmi un po' sulla politica. La politica, se l'avete seguita quest'agosto, è stata una fanfara di dichiarazioni, a dire la verità anche un po' stucchevoli a volte. Questo rapporto PDL tra Fini e Berlusconi, tra Finiani e berlusconiani, il balletto sulle elezioni, non elezioni, che probabilmente ora si è ricomposto. Per quel che riguarda il centro-sinistra, c'è la discussione partita da alcuni giorni sul nuovo Ulivo, la proposta di Bersani, che è arrivata casualmente il giorno dopo che Veltroni aveva rilanciato la sua linea, no, dell'Ulivo, del Partito Democratico a vocazione maggioritaria. Subito dopo Bersani ha detto no, facciamo un nuovo Ulivo e quindi un nuovo cartello. Tutti hanno detto oddio, ritorna l'Ulivo di Prodi, nel senso con tutte le varie sigle e siglette. No, invece si vuole cercare un'alleanza per sconfiggere Berlusconi. Insomma, la politica si interroga su questo. Sta di fatto che io segnalo intanto Ugo Magri, è l'articolo più interessante oggi come notista di politica, e sulla Stampa in prima pagina, vale a dire la linea che verrebbe consigliata da giorni a Berlusconi sarebbe questa, quella di azzerare tutto e ricomporre la scissione o comunque la frattura con Fini. Azzerare tutto, rimangiarsi l'espulsione per decreto di Fini, condannare le aggressioni dei suoi giornali alla famiglia Tugliani, cucirsi la bocca nei confronti del Quirinale, insomma prendere atto una volta per tutte che le cariche a testa bassa non lo liberano dai guai, semmai peggiorano la situazione. Ci sarebbero i pacifisti alla Gianni Letta, scrive Ugo Magri, ma praticamente l'intero gruppo del vertice del PDL, la vecchia guardia, è su questa lunghezza d'onda. Eppure alleati ruvidi come Umberto Bossi, addirittura colombe insospettabili come l'avvocato Ghedini. Insomma, è un coro, eccezion fatta per il gruppo di Amazzoni, la Rossi, la Brambilla, la Ravetto, la Santanchè, da cui il premier ama farsi applaudire, ma nonostante loro nessuno si illude più. E questo è il senso dell'articolo alleati in pressing su Berlusconi. Ora basta liti. Secondo Ugo Magri succederà questo, che Fini tra poco parlerà e dirà: o ti rimangi l'editto in cui mi dichiari incompatibile dal PDL, oppure garantisci un'alleanza elettorale del partito che fuori dal PDL dovrei fondare. A te, caro Silvio, la scelta. E se davvero Fini pronuncerà questo out-out, come scommettono alcune fonti leghiste, nel campo berlusconiano si aprirà la bagarre. Qualcuno suggerirà al cavaliere di rispondere merde, proprio come rispose il generale Cambron a Waterloo. Altri invece suggeriranno di resettare le polemiche restituendo a Fini la compatibilità e a Bocchino la carica di vice capogruppo vicario. Insomma, ci sarebbe, secondo Ugo Magri, all'interno della maggioranza questo fronte sempre più ampio, sempre più vicino a Berlusconi, a partire da Gianni Letta, a dire occhio, bisogna ricomporre la frattura con Fini, non bisogna andare su questa strada dell'attacco frontale, perché questo attacco frontale non porta a nulla. Sta di fatto che se uno oggi prende il giornale in prima pagina, ecco il nuovo attacco frontale a Fini. Fini e gli aiutini agli amici. Che cosa pubblica il giornale a pagina 3 con tanto di stralci, di intercettazioni? La firma di Francesco Kramer, aiuti agli amici nella sua camera privata. L'imprenditore che rideva del terremoto all'Aquila, ve lo ricordate? Francesco De Vito Piscicelli, quello che 5 minuti dopo la scossa di terremoto all'Aquila rideva al telefono perché già prefigurava i possibili affari per la ricostruzione. La celebre iena della cricca viene definito dal giornale, intercettato a sghignazzare la notte del terremoto in Abruzzo il 6 aprile 2009. Ebbene, secondo il giornale, Piscicelli aveva ottimi rapporti col presidente della Camera Fini, tanto da chiamare la sua fidatissima segretaria Rita Marino, il 24 novembre 2009, senta, dottoressa, avevo bisogno di vederla un minuto per una cosa vitale. E la Marino, io sono qua, perché era intercettata De Piscicelli. Domani alle 10:30 va bene? Va benissimo. Allora domani, va benissimo. C'è l'incontro e il giornale si chiede, ha incontrato la segretaria di Fini o incontrò anche lo stesso Fini? Intanto la Marino, la segretaria di Fini, sarebbe stata determinante per sbloccare un pagamento da 1,5 milioni di euro a Piscicelli per l'appalto relativo alla costruzione della piscina di Valco San Paolo per il Mondiale di nuoto a Roma, tanto da meritarsi un bel regalo in occasione del Natale. Intercettato al cellulare, ancora Piscicelli chiede «è tutto pronto?» alla sua propria segretaria. E l'altro, quello di Rita Marino, sta sulla scrivania, cioè il regalo. La consegna è stata fatta probabilmente il 22 o il 23 dicembre. Insomma, si chiede anche Vittorio Feltri in prima pagina. È saltato fuori che Francesco De Vito Piscicelli, l'imprenditore che rideva felice dopo il terremoto, telefonava alla segretaria di Fini e a lei si appoggiava per ottenere il pagamento sollecito di importi cospicui. E come? È una sciocchezza? Non direi, visto che fa parte della cosiddetta cricca con Diego Anemone. L'interrogativo perfino a questo punto è di una semplicità disarmante. Nulla da dire? Forse sbufferà. Ha fatto tutto la mia segretaria. Il giornale che continua da un mese la raccolta di firme per dire Fini dimettiti. Non so a quante sono arrivate, ma credo oltre 150.000. Che dire, la politica è questa, ce n'è anche per la sinistra dopo il traffico. Prima la riforma elettorale, poi il voto. Questa legge fa comodo solo a Berlusconi. Così parlò Massimo D'Alema. Ieri leggevo su qualche giornale in questo grande dibattito del PD, no? Dopo che Veltroni ha detto rilanciamo la mia linea del PD, quella vocazione maggioritaria, subito dopo, il giorno dopo, Bersani ha scritto a Repubblica dicendo lancio l'idea di un nuovo Ulivo a doppio cerchio, e qualcuno ha detto manca solo D'Alema. Eccolo qua, D'Alema oggi in una conversazione con Massimo Giannini, il vice direttore di Repubblica, parla, fino ad ora ha taciuto, ha detto bravo Bersani, giusto ridiscutere, però D'Alema pone il paletto principale. L'ex premier, ex presidente del DS, non ha condiviso la lettera di Veltroni, fa sapere Giannini, ha invece condiviso molto l'idea di Bersani di rilanciare l'Ulivo, come ha condiviso anche Prodi, ha detto bene, torni l'Ulivo. Però D'Alema dice ci sarebbe sicuramente una maggioranza larga contro Berlusconi nel paese, ma con questa legge elettorale si ripeterebbe la difficoltà di tradurre questa maggioranza in proposta di governo, in una leadership forte. Per questo quello della legge elettorale è davvero il nodo di fondo. E quindi torneremo a parlare di questo dibattito ozioso, veramente ozioso, lo riconosce lo stesso Massimo Giannini in apertura di articolo, di conversazione, un dibattito ozioso, però cruciale sulla legge elettorale, anche molto tecnico. Gli italiani poi, secondo me, pochissimi lo capiscono, non è un insulto, cioè mi ci devo mettere di buzzo buono anch'io per capirlo, tutti i sistemi elettorali, una delle cose più complicate, però insomma pare che ripartirà questo dibattito, è già ripartito, visto che oggi anche Angelo Panebianco in prima pagina del Corriere, l'editoriale proprio dedicato a questo, alla riforma elettorale. Solo che il Corriere poi fa un articolo a pagina 11 che secondo me è una stilettata non indifferente allo stato di salute, in questo caso del possibile nuovo Ulivo, perché si va a vedere con Alessandro Trocino che succede a sinistra del PD. E che succede a sinistra del PD? C'è una galassia di sigle nelle quali perdere veramente la Trebisonda e farsi venire il mal di testa, dai più famosi Verdi, la federazione di sinistra che è quella di Ferrero, di Liberto, Socialisti, Lavoro e Solidarietà. C'è poi il Partito Comunista dei Lavoratori di Marco Ferrando, c'è la Sinistra Critica che è quella ecologista, comunista e femminista, quella di Turigliatto, quello che fece, uno di quelli che fece cadere Prodi. Poi c'è il Partito di Alternativa Comunista, c'è il Partito Marxista-Leninista Italiano, cioè ci sono i Comunisti Sinistra Popolare di Marco Rizzo, espulso dal Partito dei Comunisti Italiani, se vi è già venuto il mal di testa non lo so. All'interno di questi partiti poi ci sono anche tutte le varie correnti. Certo, forse il più famoso a sinistra del PD è Sinistra Ecologia Libertà, se non altro è quello di Nichi Vendola, che infatti si è anche candidato arrivato a dire voglio essere io il nuovo uomo della sinistra candidata alle primarie. Insomma, una galassia di sigle frutto di infinite frammentazioni, con tanto anche di Piero Sansonetti che dice è solo folklore. Piero Sansonetti, direttore, diventato direttore di Calabria Ora, solo folklore demenziale pensare di rifondare il comunismo nel 2010, ma certo stato di salute è quello di tante tante sigle e siglette. Abbandoniamo la politica. Vi segnalo però che c'è un'interessante intervista e molto lunga di Aldo Cazzullo al ministro del lavoro Maurizio Sacconi, a pagina 6 parla di nuove sfide sociali, di nuove relazioni industriali, ma parla anche di etica, parla di antropologia positiva e negativa in questa nuova moda, insomma, di fare queste interviste un po' sdoganate anche da Tremonti, in cui si parla molto anche di filosofia, di concetti abbastanza alti. Io voglio andare al Sole 24 Ore perché, come detto, il Sole 24 Ore fa un articolo sul verso il federalismo, la classifica 2000-2010 basata sui trattati di Lisbona, sugli obiettivi di Lisbona, che peraltro sono abbastanza anche bloccati, su chi ha fatto più progressi economici nelle regioni italiane negli ultimi 10 anni. E come detto, la medaglia d'oro va al Lazio. La classifica delle regioni in base alle performance ottenute, al primo posto c'è il Lazio, davanti a Lombardia, Veneto e poi Trentino, Emilia, fino ad arrivare al 20° posto, all'ultimo posto la Sardegna. Sono tutte elaborate, come al solito, in interessanti classifiche da valutare, da studiare, da osservare. A pagina 5 del Sole, per gli sviluppi nell'ambito dell'ambiente, della demografia, delle economia, della governance, dell'istruzione, salute, lavoro e credito. Questi sono gli elementi che sono stati analizzati. Il frutto di questa classifica, di tutti questi indicatori, pone appunto il Lazio al primo posto nel progresso dal punto di vista degli ultimi 10 anni su questi settori. Questo in vista del federalismo che arriva. L'abbiamo sentito anche in GR24, c'è la settimana cruciale dei test universitari. Ogni anno le solite polemiche. Quest'anno i test creano polemiche, soprattutto a medicina, perché il 2 settembre, dunque giovedì, lo faranno 90.000 giovani aspiranti medici, uno su 10 solamente avrà una carriera in camice bianco. Che succede? Che ci sono le solite domande. Per esempio, l'anno scorso c'era questa domanda nell'esame di medicina: quali dei seguenti strumenti musicali non rientra tra le percussioni? Contrabbasso, timpano, tamburo, triangolo, gran cassa? Questa è una domanda dei test di medicina. Oggi il Sole 24 Ore, tra l'altro, ne pubblica altri di test. Me li sono persi, no? Eccoli qua, a pagina 6, un esame per puntare sulla laurea giusta. Francesca Barbieri fa tutta una serie di possibili quiz. Mettersi alla prova con i quiz, con le risposte esatte, se non le sapete. Per esempio, che noi avessimo amato. È un futuro anteriore, un congiuntivo trapassato, un congiuntivo presente, un congiuntivo imperfetto o un congiuntivo passato? Filippo Reggi in regia già si mette le mani, avrebbe già un 2 segnato sul registro. Milano nel 2008, l'assegnazione dell'Expo 2015, quale città sconfisse nel ballottaggio? Samarcanda, Smirne, Sofia o Salonicco? Insomma, via così. Se volete un po' prendere la mano, cari aspiranti universitari, se volete entrare in queste università a numero chiuso, fate i quiz oggi sul Sole 24 Ore, a pagina 6, ce ne sono di vari, insomma, quiz generali, di generalisti, un po' per capire che fare. Oh, io devo chiudere, sono al minuto conclusivo, ve l'ho detto. Io, se c'è un articolo che non sopporto nei giornali, è quello del quando arriva il caldo, i consigli per sopravvivere al caldo, che poi sono: non mettetevi il cappotto di montone, bevete tanto, non andate col sole a picco alle 2 del pomeriggio a fare una passeggiata, ma anche se il più spettacolare dei consigli è parcheggiate all'ombra, che se uno sta in un viale senza alberi, che fa? Gira continuamente e non va a lavorare. Al secondo posto degli articoli più insopportabili, ma ce ne sono e lo sapevo, oggi sulla Stampa e anche sul Messaggero, contro lo stress da rientro. La prova jeans e i fiori di Bach. Ecco così, come sopravvivere allo stress da rientro dalle vacanze. Ci sono le regole, alimentarvi bene, cioè non mangiate, che ne so, la caponata a colazione, oppure vestitevi in modo casual, non si sa perché, vestitevi in modo casual, cioè fate un rientro graduale anche nei modi di vestirvi. Certo, non andate magari in infradito dal vostro amministratore delegato, ecco, tutto qui. Insomma, contro lo stress da rientro, ci sono sulla stampa, pagina 23, i consigli da fare. Non so, gli italiani quando rientrano dalle vacanze, invece che rientrare e andare a lavorare, sono stressati, non si capisce. In ogni caso, ci fermiamo qui per la rassegna stampa. Votate il nostro sondaggio: secondo voi è giusto concedere l'8x1000 anche alle associazioni religiose? Questo vi chiediamo nella nostra dichiarazione dei redditi. Vi ricordo che rientriamo subito dopo il GR, ci sarà una novità. Dopo il GR ci sarà un'intervista a un personaggio, oggi ospite Enrico Mentana, che da oggi riparte col TG della 7 alle ore 20, ora il GR.